guardo te, sento che ci sei tu, è dentro me la tua immagine. E non sai che ritmo il mio cuore, e non sai che dolce tormento. Chiudo gli occhi e con le mani ti stringo a me. Angeli, io e te, come anime gemelle. È così, l'amore va, ora e ci sorride già. Il mio vero volto si aprirà con te, la mia anima si accenderà. Guardare su e scoprire che ci sei tu. E non sai.